quello che ho. Nel mio mondo poco spazio per te. No, non mi hai mai chiesto perché. Guardami un po' che cosa ti do. Che diritto di rovinare a modo mio le emozioni che mi sai dare tu. Dolce Natale, io giocavo con tuo amore. Dolce Natale, il mio porto sei tu. Io la barca, tu il mio mare, senza mai tempesta per me. Stanco di navigare, l'ultima mia spiaggia sei tu.